SOS ansia. Leggo nella Bibbia in Filippesi capitolo 4 versetti 6 e 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. A volte sembra proprio che tu non abbia alcun potere su di loro. Cerchi di governarli, ma essi continuano a condurti dove non vorresti. Sono come calcolatori elettronici che, nonostante tutti i tentativi di riavvio, continuano a caricare sempre lo stesso programma. Per tutto il giorno cerchi di dedicarti al tuo lavoro, alla tua famiglia, alla preghiera, al tuo servizio per il Signore, ma non riesci a concentrarti, perché quando meno te l'aspetti, te li ritrovi tra i piedi a reclamare la tua attenzione e a renderti infelice e insoddisfatto. Viene sera, cerchi di prendere sonno, ma essi non hanno alcuna intenzione di lasciarti riposare. Si prendono gioco di te, ti raggiungono nel letto e ti costringono a restare sveglio e a girarti e rigirarti per ore. Lotti, cerchi di dominarli, ma sono come cani sciolti che non hanno padrone. Quando pensi di aver messo loro un guinzaglio, te li ritrovi a correre liberi per la mente. Sei stanco, non ce la fai più. Le tempie pulsano e domani ti aspetta un'altra giornata di lavoro. In alcuni momenti della vita, i tuoi pensieri possono davvero diventare i tuoi peggiori nemici. Come la lingua batte dove il dente duole, pare che i tuoi pensieri sappiano esattamente dove andare a colpire per farti stare più male. Quando sei preoccupato, tutto diventa pesante e difficile. È come se tu cercassi di alzarti da una sedia alla quale sei legato da fili invisibili. Questi versi ti forniscono un antidoto efficace alle preoccupazioni. L'antidoto consiste nel lasciare che sia Dio ad occuparsene. Forse fino ad oggi hai pensato all'ansia come qualcosa di inevitabile, alla quale non puoi sottrarti. Ma se così fosse, il Signore non ti chiederebbe di non angustiarti di nulla. Devi imparare ad affidare a Lui la nave della tua vita. Mandagli un SOS ansia e ringrazialo per ciò che farà, lasciando che sia Lui a toglierti quell'affanno che ti accompagna giorno dopo giorno. Com'è possibile ringraziare per qualcosa che non si è ancora realizzato? Non è un paradosso, è fede. Non sai ancora cosa farà Dio per i problemi che ti assillano. Ma per fede sai che Dio ti vuole bene e vuole il meglio per te. È la fede che ti permette di unire la supplica al ringraziamento, senza aspettare l'esito delle tue richieste. E dopo? Goditi la sua pace. Hai rivolto a lui la tua istanza, sai che la pratica si trova sulla sua scrivania e che sta facendo il suo corso. Non hai più bisogno di preoccuparti per cercare delle soluzioni. Non devi più fare nulla se non aspettare di scoprire ciò che il Signore ha preparato per te. I pensieri che prima ti tormentavano ora sono custoditi dalla pace di Dio. Forse i problemi sono ancora lì, ma il tuo cuore è calmo, sicuro dell'amore di un padre che si prende cura di te. È una pace che il mondo non può capire e soprattutto non può donare, una pace che supera ogni intelligenza. Forse non sei un credente, ti sarei chiesto come mai a volte i credenti riescano ad affrontare con serenità anche situazioni che porterebbero normalmente alla disperazione. Ecco il motivo. Essi godono della pace speciale che solo Dio può donare loro in quei momenti. Allora, cosa stai aspettando? Se credi in Dio, confida in Lui. Manda il tuo SOS ansia. Lascia che sia Dio ad occuparsi di ciò che ti assilla. E goditi la sua pace che custodisce i tuoi pensieri.